Ad alta voce, Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem, di Emilio Salgari. Capitolo 9. Il tradimento. Il pranzo offerto da Lord James agli invitati fu uno dei più splendidi e dei più allegri che fossero stati dati fino allora nella villa. La cucina inglese, rappresentata da enormi beefsteaks e da colossali puddings, e la cucina malese, rappresentata da schidionate di tucani, da ostriche gigantesche dette di Singapore, da teneri bambù, il cui sapore rammentava gli asparagi d'Europa, e da una montagna di frutta squisite, furono da tutti gustate e lodate. Non occorre dire che il tutto fu innaffiato da un gran numero di bottiglie di vino, gin, di brandy e di whisky, le quali servirono a ripetuti brindisi in onore di Sandro, candela gentile quanto intrepida perla di Labuane. Al tè la conversazione si fece animatissima, discorrendo di tigri, di cacce, di pirati, di navi, dell'Inghilterra e della Malesia. Il solo ufficiale di marina si teneva silenzioso e pareva occupato unicamente a studiare Sandokan, poiché infatti non lo perdeva un solo istante di vista, né si lasciava sfuggire una delle sue parole o uno dei suoi gesti. Ad un tratto però, indirizzandosi a Sandokan, che stava parlando della pirateria, gli chiese bruscamente: «Scusate, principe, è molto tempo che voi siete giunto a Labuan?» «Mi trovo qui da 20 giorni, signore», rispose la tigre. «Ma per quale motivo non si è veduta la vostra nave a Vittoria?» «Perché i pirati mi rapirono i 2 prahos che qui mi conducevano.» «I pirati? Voi siete stato assalito dai pirati? Ma dove?» «Nei pressi delle Romades.» «Quando?» «Poche ore prima del mio arrivo su queste coste.» «Vi ingannate di certo, principe, poiché appunto allora il nostro incrociatore navigava in quei paraggi e nessun colpo di cannone pervenne a noi.» «Forse il vento soffiava da levante», rispose Sandokan, che cominciava a tenersi in guardia, non sapendo dove volesse finire l'ufficiale. «Ma come avete giunto qui?» «A nuoto.» «E non avete assistito ad un combattimento fra 2 legni corsari che si dice fossero guidati dalla tigre della Malesia ed un incrociatore?» «No.» «È strano.» «Signore, mettereste in dubbio le mie parole?» chiese Sandokan, scattando in piedi. «Dio me ne guardi, principe», rispose l'ufficiale con leggera ironia. «Oh, oh», esclamò il lord, intervenendo, «baronetto Williams, vi prego di non avviare dispute in casa mia.» «Scusatemi, lord, non ne avevo l'intenzione», rispose l'ufficialetto. «Non se ne parli più, adunque, assaggiate invece un altro bicchiere di questo delizioso whisky, poi leviamo la mensa, che la notte è calata e le foreste dell'isola non sono sicure quando fa oscuro.» I convitati fecero un'ultima volta onore alle bottiglie del generoso lord, poi tutti si alzarono e discesero nel parco, accompagnati da Sandokan e dalla lady. «Signori», disse Lord James, «spero che voi mi verrete a trovare presto.» «Siate certo che non mancheremo», dissero in coro i cacciatori, «e speriamo che non vi manchi l'occasione di essere più fortunato, baronetto William», disse, rivolgendosi verso l'ufficiale. «Tirerò meglio», rispose questi, lasciando cadere su Sandokan uno sguardo corrucciato. «Permettetemi ora una parola, milord.» «2, mio caro.» L'ufficialetto gli mormorò alcune parole all'orecchio che nessuno poté udire. «Sta bene», rispose il lord dopo. «Ed ora buonanotte, amici, e che Dio vi preservi dai cattivi incontri.» I cacciatori salirono in arcione e uscirono dal parco al galoppo. Sandokan, dopo aver salutato il lord, che pareva fosse diventato d'un tratto assai di cattivo umore, e stretta appassionatamente la mano alla giovane lady, si ritirò nella propria stanza. Invece di coricarsi, egli si mise a passeggiare in preda ad una viva agitazione. Una vaga inquietudine si rifletteva sul suo viso e le sue mani tormentavano l'impugnatura del Chris. Egli pensava senza dubbio a quella specie di interrogatorio fattogli subire dall'ufficiale di marina e che poteva nascondere un tranello abilmente tesogli. Chi era quell'ufficiale? Quali motivi lo avevano spinto a interrogarlo in quel modo? L'aveva forse incontrato sul ponte del piroscafo in quella notte di sangue? Era stato riconosciuto o l'ufficiale aveva un semplice sospetto? Si tramava forse in quel momento qualcosa contro il pirata? «Bah», disse finalmente Sandokan, alzando le spalle, «se si trama qualche tradimento io saprò sventarlo, poiché sento di essere ancora l'uomo che non ha mai avuto paura di questi inglesi. Orsù, riposiamo, e domani vedremo che cosa si dovrà fare». Si gettò sul letto senza spogliarsi, si mise accanto il Chris e si addormentò tranquillamente, col dolce nome di Marianna sulle labbra. Si svegliò verso mezzodì, quando già il sole entrava per le finestre rimaste aperte. Chiamò un servo e gli chiese dove fosse il Lord, ma gli fu risposto che era salito a cavallo prima dell'alba dirigendosi verso Vittoria. Quella nuova, che certo non si aspettava, lo stupì. «Partito», mormorò. «Partito senza avermi detto nulla ieri sera. Per quale motivo? Che si trami proprio qualche tradimento contro di me». Se stasera egli tornasse non più amico ma fiero nemico, che cosa farò di quest'uomo che mi ha curato come un padre e che è zio della donna che io adoro? Bisogna che io riveda Marianna e che io sappia qualche cosa. Discese nel parco con la speranza di incontrarla, ma non vide nessuno. Senza volerlo si diresse verso l'albero atterrato, ove ella era solita sedersi e si arrestò, mandando un profondo sospiro. «Ah, come eri bella, oh Marianna, quella sera che io pensavo a fuggire», mormorò passandosi una mano sull'ardente fronte. «Stolto, io cercavo di allontanarmi per sempre da te, adorabile creatura, mentre tu mi amavi. Strano destino, chi avrebbe detto che un giorno io avrei amato una donna? E come io ora l'amo? Vi è del fuoco nelle mie vene, del fuoco nel mio cuore, del fuoco nel mio cervello e del fuoco perfino nelle mie ossa, e che sempre cresce a misura che ingigantisce la passione. Sento che per quella donna io mi farei inglese, che per lei mi venderei schiavo, che abbandonerei per sempre la brusca viva da Tavalinveruchieria, perché maledirei i miei tigrotti e questo mare che io domino e che considero come sangue delle mie vene». Egli chinò il capo sul petto, immergendosi in profondi pensieri, ma d'un tratto lo rialzò, coi denti convulsivamente stretti e gli occhi fiammeggianti. «E se ella rifiutasse il pirata?» esclamò con voce sibilante. «Ah, non è possibile, non è possibile! Dovessi vincere il sultano del Borneo per darle un trono o fare fuoco a tutta la Buan, ella sarà mia, mia!» Il pirata si mise a passeggiare nel parco col viso sconvolto, in preda ad una agitazione violentissima che lo faceva tremare dai piedi al capo. Una voce ben nota, che sapeva trovargli la via del cuore anche attraverso le tempeste, lo richiamò in sé. Lady Marianna era apparsa allo svolto di un sentiero accompagnata da due indigeni armati fino ai denti e l'aveva chiamato. «Milady», esclamò Sandokan correndole incontro. «Mio prode amico, vi cercavo», disse ella arrossendo. Poi accostò un dito alle larme e presolo per mano lo condusse in un piccolo chiosco cinese semisepolto da un boschetto di aranci. I due indigeni si fermarono a breve distanza con le carabine montate. Ascoltate, disse la giovinetta che pareva atterrita, ieri sera vi ho udito, avete lasciato sfuggire dalle vostre labbra delle parole che hanno allarmato mio zio. Amico mio, mi è balenato un sospetto che voi dovete strapparmi dal cuore. Ditemi, mio prode amico, se la donna alla quale voi avete giurato amore vi chiedesse una confessione, la fareste voi? Il pirata, che nel mentre la lady parlava le si era avvicinato a quelle parole, si ritrasse bruscamente indietro. I suoi lineamenti si scomposero e parve che vacillasse sotto un fiero colpo. «Milady», disse dopo qualche istante di silenzio e afferrando le mani della giovinetta, «Milady, per voi tutto mi sarebbe possibile, tutto farei, parlate. Se io devo farvi una rivelazione, per quanto possa essere dolorosa per entrambi, vi giuro che la farò». Marianna alzò gli occhi su di lui, i loro sguardi, quello di lei supplichevole e lacrimoso, quello del pirata scintillante, si incontrarono e si fissarono a lungo. Quei due esseri erano in preda ad una ansietà che faceva male ad entrambi. «Non ingannatemi, principe», disse Marianna con voce soffocata. «Chiunque voi siate, l'amore che avete suscitato nel mio cuore non si spegnerà più mai. Re o bandito, io vi amerò ugualmente». Un profondo sospiro uscì dalle labbra del pirata. «E il mio nome, adunque, il mio vero nome che tu vuoi sapere, creatura celeste?» esclamò. «Sì, il tuo nome, il tuo nome». Sandokan si passò più volte la mano sulla fronte madida di sudore, mentre le vene del collo gli si gonfiavano prodigiosamente come se facesse uno sforzo sovrumano. «Odimi, Marianna», disse egli con accento selvaggio, «vi è un uomo che impera su questo mare, che bagna le coste delle isole malesi, un uomo che è il flagello dei naviganti, che fa tremare le popolazioni e il cui nome suona come una campana funebre. Hai tu udito parlare di Sandokan, soprannominato la tigre della Malesia? Guardami in viso. La tigre sono io». Giovanetta mandò involontariamente un grido d'orrore e si coperse il viso con le mani. «Marianna», esclamò il pirata cadendo ai suoi piedi con le braccia tese verso di lei, «non respingermi, non spaventarti così. Fu la fatalità che mi fece diventare un pirata, come fu la fatalità che mi impose questo sanguinoso soprannome. Gli uomini della tua razza furono inesorabili con me, che pur non avevo fatto loro alcun male. Furono essi che dai gradini d'un trono mi precipitarono nel fango, che mi tolsero il regno, che mi assassinarono madre, fratelli e sorelle e che mi spinsero su quei mari. Non sono pirata per avidità, sono un giustiziere, il vendicatore della mia famiglia e del mio popolo, nulla di più. Ora, se lo credi, respingimi e io m'allontanerò per sempre da questi luoghi, onde non farti più paura». «No, Sandokan, non ti respingo, perché ti amo troppo. Perché tu sei prode, tu sei potente, tu sei tremendo come gli uragani che sconvolsero gli oceani. Ah, tu m'ami ancora. Adunque, dimmelo con le tue labbra, dimmelo ancora. Sì, t'amo, Sandokan, e più ora che ieri». Il pirata la tirò a sé e se la strinse al petto. Una gioia sconfinata illuminava il suo maschio viso e su quelle labbra errava un sorriso di felicità sconfinata. «Mia! Tu sei mia!» esclamò egli, delirante, fuori di sé. «Parla ora, o mia adorata, dimmi che cosa io posso fare per te, che tutto mi è possibile. Se vuoi andrò a rovesciare un sultano per darti un regno, se vorrai essere immensamente ricca io andrò a saccheggiare i templi dell'India e della Birmania per coprirti di diamanti e di oro, se vuoi io mi farò inglese, se vuoi che rinunci per sempre alle mie vendette e che il pirata scompaia... andrò a incendiare i miei praos, onde non possano più corseggiare, andrò a disperdere i miei tigrotti, andrò ad inchiodare i miei cannoni, onde non possano più ruggire e distruggerò il mio covo. Parla, dimmi ciò che vuoi, chiedimi l'impossibile e io lo farò. Per te mi sentirei capace di sollevare il mondo e di precipitarlo attraverso gli spazi del cielo. La giovinetta si chinò verso di lui sorridendo, cingendogli con le delicate manine il robusto collo. «No, mio valoroso», disse, «non chiedo altro che la felicità accanto a te. Portami lontana, in un luogo, ma dove tu possa sposarmi senza pericoli, senza ansie. Sì, se tu lo vorrai, ti porterò in una lontana isola coperta di fiori e di boschi, dove tu non udrai più parlare della tua Labuan, né io della mia Monpracem, in un'isola incantata del grande oceano, dove potremmo vivere felici come due colombi innamorati, il terribile pirata che si è lasciato dietro torrenti di sangue e la gentile perla di Labuan. Tu verrai, Marianna? Sì, Sandokan, io verrò. Odimi ora. Un pericolo ti sovrasta, forse un tradimento si sta tramando in questi momenti contro di te. Lo so, esclamò Sandokan, lo sento questo tradimento, ma io non lo temo. Bisogna che tu mi ubbidisca, Sandokan. Che cosa devo fare? Devi partire all'istante. Partire? Partire, ma io non ho paura. Sandokan, fuggi, mentre hai tempo. Ho un funesto presentimento, temo che ti tocchi una sciagura. Mio zio non è partito per capriccio, egli deve essere stato chiamato dal baronetto William Rosenthal, il quale ti ha forse conosciuto. Ah, Sandokan, parti, ritorna ora alla tua isola e mettiti in salvo, prima che la tempesta si scateni sul tuo capo. है तुझे आकाश ऊपर तले शायद किसी बदरी में लिपटी हुई तू मिले. Invece di ubbidire, Sandokan afferrò la giovinetta e la sollevò tra le braccia. La sua faccia poco prima commossa aveva preso un'altra espressione, i suoi occhi balenavano, le tempie gli battevano furiosamente e le sue labbra si schiudevano mostrando i denti. Un istante dopo si scagliò come una belva attraverso il parco, varcando ruscelli, fossati e la cinta come se avesse paura o cercasse di fuggire qualcosa. Non si arrestò che sulla spiaggia, dove errò a lungo, senza sapere dove andasse né cosa facesse. Quando si decise a ritornare, la notte era calata e la luna era sorta. Appena rientrato nella villa, chiese se il lord era giunto, ma gli fu risposto che non era stato veduto. Salì nel salotto e trovò Lady Marianna inginocchiata dinanzi a una immagine col viso inondato di lagrime. «Mia adorata Marianna», esclamò egli, rialzandola, «è per me che piangi. Forse perché io sono la tigre della Malesia, l'uomo esecrato dai tuoi compatrioti. No, Sandokan, ma ho paura. Una disgrazia sta per te. Fuggi, fuggi di qui. Non ho paura io. La tigre della Malesia non ha mai tremato e...» Si arrestò di colpo, rabbrividendo suo malgrado. Un cavallo era entrato nel parco, arrestandosi dinanzi alla palazzina. «Mio zio, fuggi, Sandokan!» esclamò la giovanetta. «Io...» In quel momento egli stesso entrava nel salotto Lord James. Non era più l'uomo del giorno innanzi, era grave, accigliato, torvo e indossava la divisa di capitano di marina. Con un gesto sdegnoso respinse la mano che il pirata audacemente gli porgeva, dicendo con freddo accento: «Se io fossi stato un uomo della vostra specie, anziché chiedere ospitalità ad un nemico acerrimo, mi sarei lasciato uccidere dalle tigri della foresta. Ritirate quella mano che appartiene ad un pirata, ad un assassino». «Signore», esclamò Sandokan, che aveva ormai compreso di essere stato scoperto e che si preparava a vendere caramente la vita, «non sono un assassino, sono un giustiziere. Non un accento di più in casa mia. Uscite!» «Sta bene», rispose Sandokan, gettò un lungo sguardo sull'amante che era caduta sul tappeto semisvenuta, fece atto di precipitarsi, ma si fermò e a lenti passi con la mano stessa sul punto delle pirrissi, la testa alta, lo sguardo fiero. Uscì dalla sala e discese i gradini soffocando con uno sforzo prodigioso i battiti furiosi del cuore e la profonda emozione che lo invadeva. Quando però giunse nel parco si fermò, snudando il kris, la cui lama scintillò ai raggi della luna. A 300 passi si estendeva una linea di soldati con le carabine in mano, pronte a far fuoco su di lui. Capitolo decimo. La caccia al pirata. In altri tempi Sandokan, quantunque quasi inerme e di fronte ad un nemico 50 volte più numeroso, non avrebbe esitato un solo istante a gettarsi sulle punte delle baionette per aprirsi un passaggio a qualunque costo, ma ora che amava, ora che sapeva di essere riamato, ora che quella divina creatura forse lo seguiva ansiosamente con gli sguardi, non voleva commettere una simile pazzia che poteva costargli la vita e da lei chissà quante lacrime. Bisognava tuttavia aprirsi un passaggio per raggiungere la foresta e di là il mare, suo unico scampo. «Ritorniamo», disse. «Poi vedremo». Risalì le scale, senza essere stato scorto dai soldati, e rientrò nel salotto col Chris in pugno. Il Lord era ancora là, la giovane Lady era invece scomparsa. «Signore», disse Sandokan avvicinandoglisi, «se io vi avessi ospitato, se io vi avessi chiamato amico e poi scoperto per un mortale nemico, vi avrei additata la porta, ma non vi avrei teso un vile agguato. Laggiù, sulla medesima strada che io dovrò percorrere, vi sono 50, forse 100 uomini pronti a fucilarmi. Fateli ritirare e mi si lasci libero il passo». «Questa invincibile tigre ha dunque paura?» chiese il Lord con fredda ironia. «Paura io? No, davvero, milord, ma qui non si tratta di combattere, ma di assassinare un uomo inerme. Ciò non mi riguarda. Uscite. Non disonorate più oltre la mia casa, o per Iddio non minacciatemi, Lord, poiché la tigre sarebbe capace di mordere la mano che l'ha curata. Uscite, vi dico. Fate prima ritirare quegli uomini». «A noi due, dunque, o tigre della Malesia», urlò il Lord, sguainando la sciabola e chiudendo la porta. «Ah, lo sapevo io che avreste cercato di assassinarmi a tradimento», disse Sandokan. «Orsù, milord, apritemi il passo o io mi getto contro di voi». Il Lord, invece di ubbidire, staccò da un chiodo un corno e lanciò una nota acuta. «Ah, di voto», gridò Sandokan, che si sentì ribollire il sangue nelle vene. «È tempo, ho sciagurato, che tu cada nelle nostre mani», disse il Lord. «Fra pochi minuti i soldati saranno qui e fra 24 ore sarai appiccato». Sandokan mandò un sordo ruggito. Con un salto da felino si impadronì di una pesante sedia e si slanciò sulla tavola che stava in mezzo alla sala. Faceva paura. I suoi lineamenti erano ferocemente contratti per il furore, i suoi occhi parevano mandare fiamme ed un sorriso di belva gli errava sulle labbra. In quell'istante si udì al di fuori uno squillo di tromba e nel corridoio una voce, quella di Marianna, gridare disperatamente: «Fuggi, Sandokan! Sangue! Vedo sangue!» urlò il pirata. Sollevò la sedia e la scagliò con forza irresistibile contro il Lord, il quale, colpito in pieno petto, stramazzò pesantemente al suolo. Pronto come il lampo, Sandokan gli fu sopra col Chris alzato. «Uccidimi, assassino!» rantolò il Lord. «Rammentatevi ciò che vi dissi giorni or sono», rispose il pirata. «Vi risparmio, ma bisogna che vi renda impotente». Ciò dicendo, con una destrezza straordinaria lo rivoltò e gli legò solidamente le braccia e le gambe con la propria fascia. Gli prese poscia la sciabola e si slanciò nel corridoio gridando: «Marianna, eccomi!» La giovane Lady si precipitò fra le sue braccia, poi, traendolo nella propria stanza, gli disse piangendo: «Sandokan, ho veduto i soldati. Ah, mio Dio, tu sei perduto!» «Non ancora», rispose il pirata. «Io fuggirò ai soldati, lo vedrai». La prese per un braccio e, condottala dinanzi alla finestra, la contemplò per alcuni istanti ai raggi della luna, fuori di sé. «Marianna», disse, «giurami che sarai mia sposa». «Te lo giuro sulla memoria di mia madre», rispose la giovanetta. «E mi aspetterai?» «Sì, te lo prometto». «Sta bene, io fuggo, ma fra una settimana o due al più io tornerò qui a prenderti alla testa dei miei valorosi tigrotti. Ora a voi, cani di inglesi», esclamò, rizzando fieramente l'alta statura. «Io mi batto per la perla di Labuan». मैंने समय रोक के तेरा पता पूछा है, मिले नदी से कह के सागर तले ढूंढ।